storia d'amore che parla di un mondo senza amore, che ha bisogno di un poco d'amore. Solo a Londra una ragazza piange, in tutto il mondo c'è qualcuno che ha bisogno un po' d'amore, di sentimenti che danno valore all'anima. Solitudine vuol dire sentirsi soli tra tanta gente, amore vuol dire non avere niente e poter dare ancora qualcosa. C'è la tua anima nel mondo, il mondo è nella tua. Vecchio mondo sta piangendo, della gente passa e sta guardando, lui si copre il viso con le mani, sta morendo per il dolore, come una madre che non può dar l'amore.